giornale radio del Friuli Venezia Giulia. L'assestamento di bilancio si avvia al voto finale. La manovra estiva, ricca di oltre 1,2 miliardi di euro, occuperà i consiglieri regionali ad oltranza fino alla scontata approvazione del documento finanziario di metà anno. Sciopero stamattina alla Savio di Pordenone, a scatenarlo l'arrivo di una PEC con cui l'azienda tessile annunciava ai 300 lavoratori la disdetta della contrattazione di secondo livello sul premio di risultato e sul piano industriale già concordato con i sindacati. Diventano 19 i municipi che si battono contro il progetto del grande parco eolico che si vorrebbe realizzare sul monte Craguenza. 15 comuni della comunità del Natisone e Torre si sono infatti uniti ai sindaci di Pulfero, Torreano, San Pietro, Natisone e Moimacco. A Udine un protocollo fra azienda sanitaria e forze di polizia tenterà di stabilire procedure capaci di impedire le violenze contro il personale sanitario in servizio in ambulatori, ospedali e pronto soccorso. Per lo sport, l'Udinese in ritiro in Austria, dove ieri in amichevole è stata sconfitta dagli emiratini dello Shabab Al Ahly. I bianconeri rimarranno a Linz fino al 2 agosto, domani pomeriggio sfideranno la nazionale del Qatar. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Andrei Maruscic e Antonio Cagliazza. Avanti tutta, fino alla notte, forse addirittura fino all'alba per la votazione finale. È la giornata conclusiva dell'iter in aula dell'assestamento di bilancio, una manovra da oltre 1,2 miliardi di euro. Sarà lunga la giornata conclusiva dedicata alla manovra estiva. I consiglieri regionali sono alle prese con la presentazione degli emendamenti che riguardano diversi temi. In mattinata tanta l'attenzione dedicata alle politiche abitative, all'ambiente e alla mobilità ciclabile. Dall'opposizione arriva la proposta della Capozzi del Movimento 5 Stelle, poi sottoscritta da diversi consiglieri della minoranza, che ha chiesto più risorse per accelerare l'iter della rimozione della linea ferroviaria che attraversa Udine e che crea problemi di ingolfamento della viabilità. La Capozzi ha proposto di creare percorsi ciclabili dotati di pannelli fotovoltaici. Sul tema è tornato anche il PD con Carli, che ha chiesto di completare il percorso della ciclovia FVG3, la Pedemontana, collegando anche Meduna, Colvera e Cellina. Da Mazzolini, Federica Presidente, arriva la richiesta per il collegamento ciclabile Socchieve Lignano Sabbiadoro. Dal patto civica con la Massolino invece arriva la proposta di uniformare la progettazione delle ciclovie sul territorio regionale con la formazione del personale tecnico degli enti locali. Diverse le proposte che riguardano le politiche abitative. Da Gersini ce lega Salvini un emendamento a favore dell'ATER. Dal PD la proposta per agevolare l'accesso alle locazioni per le famiglie con ISEE basso o per le coppie giovani o per le famiglie con un unico genitore con più figli a carico. Carli del PD ha chiesto di smuovere il mercato degli affitti anche mettendo a disposizione il fondo di garanzia destinato ai proprietari di abitazioni. Buna della Lega Salvini ha fatto un intervento a favore dei consorzi per l'ammodernamento del parco autocarri a disposizione delle autoscuole per incentivare le patenti C. Da Fratelli d'Italia arriva la richiesta di 550.000 euro per la riqualificazione delle sedi degli 8 gruppi degli Alpini, mentre Giacomelli, Fratelli d'Italia, chiede 1 milione per l'installazione degli impianti di climatizzazione negli edifici di proprietà comunale nei 4 comuni capoluogo che ospitano centri estivi. Trieste, Vaciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. E i 15 comuni della comunità di montagna del Natisone e Torre si schierano all'unanimità a fianco dei sindaci di Pulfero, Torreano, San Pietro Natisone e Moimacco contro il progetto di parco eolico sul monte Craguenza. Nella sala consiliare del municipio di Faeris, l'assemblea dei sindaci della comunità di montagna ha appunto approvato un ordine del giorno che esprime viva contrarietà alla realizzazione dell'opera denominata Pulfar, in quanto la salvaguardia dei territori, della popolazione, dei siti naturalistici, oltre che della flora e della fauna locali, ne verrebbe irrimediabilmente compromessa. Il sindaco di Torreano, Francesco Pascolini, è stato nominato delegato per seguire la vicenda in nome e per conto della comunità. Presentazione nel primo pomeriggio a Trieste della rete degli amministratori cattolici che punta a sviluppare progetti e iniziative condivisi attraverso una collaborazione trasversale tra gli schieramenti politici. L'iniziativa è della Rete di Trieste, il network di amministratori locali di ispirazione cattolica. La presentazione alle 13.30 nella sala Tessitori di Piazza Oberdan a Trieste. Astensione dal lavoro all'inizio del turno, presidio all'ingresso dello stabilimento, in sciopero stamattina i dipendenti della Savio di Pordenone, azienda che produce macchine tessili. Sciopero alla Savio Macchine Tessili di Pordenone. L'assemblea e la conseguente astensione dal lavoro sono state indette dopo l'arrivo di una PEC con la quale l'azienda annunciava unilateralmente la disdetta della contrattazione di secondo livello sul premio di risultato e del piano industriale già concordato con le organizzazioni sindacali. La Savio, specializzata in produzione di testine di tessitura, occupa circa 300 lavoratori. Secondo il piano sottoscritto, si impegnava a produrre circa 60.000 testine all'anno, ma allo stato attuale si spera di raggiungerne non più di 18.000, con la conseguenza del ricorso alla cassa integrazione a rotazione. Nicola Drigo, FIM CISL. Stiamo venendo da 2 anni in cui la prima parte dell'anno c'è stato un uso massiccio di cassa integrazione. A questo appunto le relazioni sindacali con l'azienda sono sempre state ai minimi storici. Le conseguenze della diminuzione della produzione si ripercuotono anche sull'indotto coinvolto a livello territoriale. Simonetta Chiarotto, FIOM CGL. Il piano industriale di questa azienda può determinare o meno la permanenza di altre aziende che sono nel territorio. Arrivare alle 60.000 testine, allora c'è un tipo di condizione anche per l'indotto. Se questo non è, bisogna capire la ricaduta, che secondo noi è comunque importante. Le organizzazioni sindacali e i lavoratori confidano anche che gli incontri già pianificati con i rappresentanti istituzionali possano chiarire il futuro dell'azienda. Roberto Zami, Wilm. Noi abbiamo la necessità, uno, di capire quelle che sono le prospettive di Savio da un punto di vista industriale e della tenuta occupazionale, e due, gli aspetti salariali. La Regione ci ha convocato al tavolo, speriamo mostri la sua sensibilità per quanto riguarda uno stabilimento storico. Pordenone, Biagio Ingenito, TGR Friuli Venezia Giulia. Azienda sanitaria del Friuli Centrale, Regione e Forze dell'Ordine hanno firmato a Udine un protocollo per prevenire le violenze nei pronto soccorso e in generale contro il personale sanitario di ospedali e ambulatori. Una firma per la sicurezza. L'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale e la polizia di Udine hanno siglato un accordo per accrescere il sistema di videosorveglianza negli ospedali e nelle strutture gestite da USFC. Una decisione che mira a rispondere al numero sempre più alto di aggressioni nei confronti di medici e infermieri da parte di pazienti o di loro familiari, oltre ai danneggiamenti provocati agli ambienti sanitari. L'accordo prevede di installare 9 telecamere di sicurezza. 12 sono attive da oggi al pronto soccorso di Udine, 6 al Gervasù e 2 alla REMS di Via Pozzuolo, altre ancora saranno installate per un totale di 60. Ci sarà anche un collegamento diretto con la centrale operativa della polizia che verrà allertata con una segnalazione. È compresa anche una formazione specifica per gli operatori sanitari perché possano evitare in situazioni di possibile conflitto lo scontro fisico con persone in stato di agitazione in attesa dell'arrivo delle forze di polizia. Impareranno anche le procedure per eventuali denunce e avranno sostegno psicologico. Questo accordo rappresenta un ulteriore passo per la sicurezza all'interno delle strutture per i nostri dipendenti, anche alla luce degli ultimi recenti episodi, ha dichiarato il direttore generale di ASUFC, Denis Caporale. Il personale deve poter lavorare con la massima serenità in qualsiasi fascia oraria. Per il questore di Udine Farinacci, assicurare una cornice di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie è una priorità. Alla stipula dell'accordo era presente anche l'assessore regionale alla salute, Riccardi. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. E oggi c'è stato anche l'incontro fra organizzazioni sindacali e la direzione di ASUFC per la ripartizione dei finanziamenti regionali. La FP-CGL esprime soddisfazione per il riconoscimento di quanto fatto dal personale tecnico, amministrativo e professionale di tutta ASUFC per l'importo complessivo pari a poco più di 500.000 euro, importo che si aggirerà intorno ai 350 euro per 1.100 lavoratori. Per quel che riguarda il personale sanitario e sociosanitario delle aree cosiddette disagiate dell'azienda, cioè Tolmezzo e La Tisana, sono previsti 440.000 euro per una quota pro capite pari a circa 530 euro per circa 800 lavoratori. E ancora per il personale sanitario e sociosanitario che opera in strutture con criticità di natura organizzativa, sono previsti 400.000 euro per circa 530 euro pro capite e per circa 710 lavoratori. Ma sentiamo il commento del direttore generale di ASUFC, Denis Caporale, su questo accordo. Un riconoscimento in più ai nostri operatori di alcune aree che in qualche maniera sono un po' quelle aree che sono un po' più in difficoltà, e quindi sicuramente le medicine, le cure intermedie sul territorio, i CSM, ma soprattutto siamo riusciti a trovare un accordo anche per incentivare il personale, gli operatori sanitari che lavorano in alcune aree che in questo momento sono geograficamente più in difficoltà, ossia l'Artigiana e Tolmezzo, un accordo importante. Ci saranno più di 500 euro a operatore che verranno riconosciuti, più abbiamo anche siglato l'accordo sul welfare aziendale per riconoscere a chi ha dei figli naturalmente un incentivo per la gestione proprio della famiglia e dei figli. Mario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. A Trieste stamattina uno scooter ha preso fuoco in viale Miramare, successo attorno alle 8:15. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili urbani e una squadra dei vigili del fuoco di Trieste. Il mezzo aveva avuto un principio di incendio mentre stava viaggiando con due persone a bordo, una madre e suo figlio. All'altezza dell'incrocio con via Boveto, la conducente, voltatasi per controllare la strada, si è accorta delle fiamme che sarebbero scaturite su una perdita di benzina sullo scarico. I due occupanti sono scesi dallo scooter lasciandolo in fiamme sulla carreggiata e allontanandosi per proteggersi. E sempre a Trieste, in mattinata, in via Oriani, poco prima di Largo Barriera, un camion ha perso la pedana di carico abbattendo una fila di motorini parcheggiati. Un passante è rimasto lievemente ferito. L'Università e il Tribunale di Trieste hanno firmato un accordo quinquennale per consentire a due persone sottoposte alla messa alla prova di svolgere attività di pubblica utilità nell'Ateneo cittadino. La messa alla prova è un istituto giuridico che consente all'imputato, in determinati casi, un'alternativa al processo superando un periodo di prova la cui durata è stabilita dal giudice attraverso l'assunzione di impegni di riparazione del danno causato con la commissione del reato, tra cui quello di mettere a disposizione tempo e competenze gratuitamente a favore della comunità attraverso lavori di pubblica utilità. Le attività concordate con UNITS saranno svolte a titolo gratuito in una delle sedi universitarie e comprendono servizi di portierato, supporto al personale, all'attività amministrativa, cura del verde, pulizia delle aree esterne, piccola manutenzione, custodia delle biblioteche. L'accordo è stato sottoscritto dal rettore dell'Università di Trieste, Roberto Di Lenarda, e dal presidente del Tribunale, Igor Maria Rifiorati. Da oggi a domenica 3 agosto si tiene la festa dell'Unità di Aquileia al parco di via Minut. Stasera alle 20 un dialogo tra i deputati Dem, Deborah Serracchiani e Gianni Cuperlo su riforme costituzionali, democrazia in discussione. Le 12:43, uno sguardo al meteo, cielo da coperto a variabile sulla regione, le temperature registrate alle 11. Trieste 26 gradi, mare poco mosso con temperatura di 27,5 gradi. Udine e Pordenone 25 gradi, Gorizia 22,5. Tolmezzo 21 gradi, Forni di Sopra 18, Piancavallo e Tarvisio 17, Sappada 15 gradi. Montelusari 13, Monte Zoncolani invece 12,5 gradi, a Grado 26,5 con temperatura del mare di 26,5 gradi, a Lignano 26 gradi con temperatura del mare di 27,5 gradi. Ecco le previsioni per il pomeriggio, giornata instabile con nuvolosità variabile, rovesce temporali sparsi a più riprese e più probabili comunque nelle ore centrali in pianura e sulla zona montana. Maggiore presenza di sole sulla costa con vento moderato da sud-ovest e prevalenza di brezza questo pomeriggio, possibili temporali localmente forti. E domani nuvolosità variabile con rovesci e temporali sparsi a più riprese nel corso della giornata, più probabili al mattino e nelle ore centrali. Sulla costa vento moderato da sud al mattino, prevalenza di brezza al pomeriggio con possibili temporali localmente forti. Fiorella Mannoia sarà in concerto stasera al Castello di Udine alle 21, nuova tappa della tournée Fiorella Sinfonica Live con orchestra in teatro, successo che aveva già fatto collezionare ovunque il tutto esaurito e ora riserva un ritorno estivo a gran richiesta. I biglietti sono in vendita su Ticket One e alle biglietterie del concerto dalle 19:30. E nell'ambito del cartellone estate del Teatro Verdi di Pordenone alle 21 arriva il trasformista Arturo Bracchetti con il suo spettacolo Arturo racconta Bracchetti, un talk tra vita e palcoscenico ripercorrendo incontri, successi e curiosità, tra queste quelle del pubblico, domande spontanee che contribuiscono allo spettacolo. Il celebre trasformista ci racconta quali sono quelle più spiazzanti. La gente scrive le domande su dei pezzettini di carta che poi consegna prima dello spettacolo, io rispondo alle loro domande, lo spettacolo in fondo è quello, e mi trovo nelle scatolone le domande strane, tipo uno che mi chiede me lo dai 1 milione di euro? E poi si firma pure il numero di telefono. Oppure credi alle fate, agli gnomi, ai folletti, oppure che ne so, ma il tuo sisì è indirettamente proporzionale alla lunghezza del tuo ciuffo, insomma, e sono veramente, la gente osa molto, mi diverte molto. C'è un po' di difficoltà nel rispondere probabilmente, ma in quale personaggio non vorrebbe mai trasformarsi? Il personaggio più difficile che devo fare purtroppo ogni tanto è fare me stesso, tutti gli altri personaggi mi divertono, io a casa ho 450 costumi, quindi ho uomini, donne, bambini, alberi, ananas. Essere se stessi sicuramente è il più difficile. Perché è nato questo bisogno di raccontarsi? La gente a tavola mi chiedeva un sacco di domande e poi mi dicevano: cavolo, ma tu quando racconti le storie così, siamo insieme davanti a un bicchiere, io di te e loro magari di birra, diciamo, sono divertenti, sono curiosi, hai una vita veramente piena di colpi di scena, e devo dire, ho lavorato con personaggi incredibili, da Tognazzi a Quartetto Cetra, ho lavorato per il Principe Carlo, la Lady Diana, ho la statua di cera al Museo di Parigi, insomma è una vita, devo dire, che mi ha sorpreso, soprattutto adesso quando la guardo indietro, mi piace ovviamente raccontarla perché so che la gente si incuriosisce e si diverte. Oltre allo spettacolo, oltre Arturo Bracchetti, il grande trasformista, chi è il più grande trasformista al di fuori del teatro nella scena attuale? L'uomo comune è trasformista perché cambiamo di idee abbastanza velocemente, e nel bene e nel male, no? Perché nell'Ottocento l'uomo tutto d'un pezzo era quello giusto, no? Quello che non cambiava mai idea, invece adesso cambiamo tutti un po' di opinione spesso, ma io lo considero addirittura un momento di trasformazione e di rinnovamento. Mittelfest, dedicato al tema del tabù, prosegue con una giornata ricca di prime assolute, di musica dal vivo e incontri. La giornata inizia alle 16 nel cortile di Firmine, dove va in scena Caffè al Fronte, l'incontro con Enrico Baraldi e Graziano Graziani del podcast Teatri di Guerra. Alle 18 nell'Orto delle Orsoline si cambia tono il registro con Crazy Pony, uno spettacolo che fonde musica bluegrass, acrobazie da circo e una buona dose di ironia britannica. Nella chiesa di San Francesco poi debutta alle 19 Elsinor di Paolo Antonio Simioni, un'opera corale in quattro lingue, friulano, italiano, ungherese e inglese, e alle 21.30 al Teatro Ristori l'elettropop degli Shkodra Elektronike, il duo che ha rappresentato l'Albania all'Eurovision Song Contest. Nuovo appuntamento con i concerti alla Casa Rossa di Gorizia, con un evento a ingresso libero pensato come un omaggio al pubblico giovane della capitale europea della cultura. Alle 21.30 si esibirà Tony F, acclamato e discusso rapper romano. Anche in questa occasione la sua performance è stata anticipata da proteste delle associazioni SOS Rosa e da Donna a Donna, che reputano i suoi testi violenti e misogini. Domani invece, sempre a Casa Rossa, sarà il turno di Alfa. I due concerti comporteranno alcune modifiche alla viabilità e divieti di sosta su tutto lo slargo centrale del piazzale, previsto il divieto di transito dalle 18.30 fino all'1. Siamo allo sport, il calcio. L'Udinese è in ritiro in Austria, dove ieri in amichevole è stata sconfitta dai campioni degli Emirati Arabi Uniti dello Shabab Al-Ahli per 3-1. Dopo l'1-1 a Fagania contro l'Opatija, squadra della seconda serie croata, i bianconeri steccano anche il primo test in terra austriaca, dove si impongono i campioni emiratini del Shabab Al-Ahli per 3-1. Il primo gol degli arabi, allenati da Paolo Sosa, si innesca sulla fascia sinistra dopo una ventina di secondi. A concludere, di prima intenzione, è Mateusao. In porta c'era Sava Okoye, non è schierabile, fino al 19 ottobre. La rincorsa degli uomini di Runjajić, che schiera il 4-3-3 con Pafundi, Brenner, Davis in attacco, non è efficace o imprecisa, vedi tiro alto di Pajero al 14° minuto. Sempre nel primo tempo, al 34° arriva il secondo gol del Shabab Al-Ahli ad opera di Suarez, che dopo il cross segna di testa incontrastato in area. Secondo tempo che inizia male per i friulani, al 48esimo, dagli sviluppi di un fallo laterale, nasce un cross impreciso che sbatte prima sul palo, poi il pallone arriva a Saed che spiazza Padelli e il 3-0. I tanti cambi, 11 per l'Udinese, non incidono, ma al 67esimo c'è il gol della bandiera. Il colpo di testa di Baio vale il primo gol in bianconero per l'ex Watford. Manca un mese alla prima giornata del campionato, per Runjajić c'è tanto lavoro da fare. E i bianconeri rimarranno in Austria a Lienz fino al 2 agosto. Domani alle 16 sfideranno a Mittersil la nazionale del Qatar. Oggi in ritiro è la giornata del Media Day con la presentazione degli acquisti Baio e Bertola e la conferenza stampa di Runjajić. Prosegue anche la preparazione atletica. Una va bene dove l'allenatore parla inglese, preparatore spagnolo, i giocatori tra di loro mixano nella stessa frase francese e italiano o le lingue del nord. È l'ennesimo Udinese multinazionale, quella che ha appena concluso l'allenamento aperto alla stampa a Lienz nel ritiro austriaco fino al 1 di agosto, prima dell'amichevole in Olanda con il Twente. Udinese che torna in Austria per l'ottava volta nelle ultime 9 stagioni, è rimasta in Italia soltanto nel 2020, l'anno della pandemia. La squadra di Runjajić ha iniziato l'allenamento sotto una pioggia leggera dopo il diluvio della notte, le nuvole si sono un po' aperte poi lasciando spazio al sole, seduta con un po' di lavoro fisico defaticante dopo l'amichevole persa ieri e tanto divertimento per il gruppo con giochi a coppie, non solo, finalizzati al controllo della palla e con i gol segnati nelle porticine. Non hanno partecipato alla sessione l'infortunato Toven, che ancora non ha raggiunto l'Austria, e gli affaticati Christensen, Pafundi, Pagero e Modesto. Curiosità per i nuovi acquisti, il difensore Bertola, proveniente dallo Spezia, l'attaccante Baio, punta ex Watford, che saranno presentati a breve alla stampa. Non sarà Baio però, almeno nelle idee iniziali di Runjajić, a sostituire Lorenzo Lucca, ceduto la scorsa settimana a Napoli. Abbiamo parlato con il direttore Gökhan Inler, che ci ha assicurato che il nuovo giocatore arriverà nelle prossime settimane, dovrà portare in dote non soltanto gol ma anche fisicità e capacità di far salire la squadra. Lienz, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. E i titolari di biglietto della finale UEFA Super Cup 2025, che si terrà il 13 agosto allo stadio Friuli di Udine, potranno accedere assieme a un'altra persona dal 28 luglio al 15 agosto ai civici musei di Trieste usufruendo del biglietto ridotto. L'iniziativa è valida per la visita dei musei che normalmente prevedono il pagamento del biglietto: Revoltella, Museo Teatrale Carl Schmidl, Museo del Castello di San Giusto, Museo de Enriquez e il Museo di Storia Naturale. Tutti gli altri musei civici triestini sono gratuiti. E ora ancora un cenno ad altri appuntamenti per la rassegna Libri e Autori a Grado alle 18 al Velarium. Mauro Mazza presenterà il suo libro Mostruosamente, la tragica storia di Magda Goebbels, la moglie di Josef, il gerarca più vicino ad Hitler e ministro della propaganda. E alle 18.30 al Palapineta, nel Parco del Mare di Lignano, Nicola Zille presenta il suo romanzo giallo L'Uomo Sbagliato, l'appuntamento nell'ambito degli incontri con l'autore e con il vino. A Mariano del Friuli, ai dialoghi con l'autore in Estate in giallo, Silvano Colugnatti presenterà il suo racconto Il cuore burbero del commissario Crismani, alle 20 a Villa De Finetti nella frazione di Corona. Alle 21 nella Corte Morpurgo a Udine, More Than Jazz presenta 1685, Enrico Pierannunzi suona Bach, Handel e Scarlatti, un concerto che fonde profondità classica e sensibilità. In caso di maltempo l'evento si terrà allo Spazio Venezia. A chiudere la rassegna Dal Friuli al Mondo, Cultura, Natura e Tradizione, alle 20.30 al Centro Civico Eugenio Candon di Pinzano al Tagliamento sarà Bar Sport, uno spettacolo di e con Paolo Patui. Alle 21 la Corte Marco Daviano a Gradisca di Sonzo ospita l'orchestra Thomas Shippers, diretta dal maestro Carlo Grandi, che inaugura il Festival Shippers 2024-2025 con il concerto Barock. La Trash Night torna al Castello di San Giusto a Trieste alle 21 con una serata evento con Corona, icona della dance mondiale degli anni 90. A Budoia, nell'area mercatale scenario d'estate, propone la commedia degli equivoci Cash on Delivery, un assegno tira l'altro di Michael Cooney, messa in scena con la regia di Michela Cursi alle 21.15. E per il Festival Maravee Circus 2025, ultimo spettacolo in programma, Vertigini tragicomiche, alle 21.30 al Cinema Teatro Sociale di Gemona. Sono le 12.54 minuti 40 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Marco Ferrito e da Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. La nostra informazione torna in televisione col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e poi alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Da Andrei Maruscic e da Antonio Cajazza, buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.